Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Paradossalmente, ripeto paradossalmente, alla fine l'accusa meno dura che è arrivata sembra quella di razzismo, perché sono arrivate anche le bordate. È il ritorno o l'arrivo in Italia dell'apartheid, o peggio, un'iniziativa che ricorda i treni per Auschwitz di Pietro. Finirà che si cuciranno sul vestito degli immigrati la lettera I, come un tempo si metteva la stella di Davide agli ebrei. Casini. Stiamo parlando, forse lo avete capito se seguite in questi giorni il dibattito sulla scuola, della mozione della Lega approvata dalla Camera che impegna il governo a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri, appunto, alla scuola. Beh, come? Per esempio facendo un test che va superato dagli studenti e specifiche prove di valutazione. Chi non lo supera, per esempio, deve seguire dei corsi, quelle classi di inserimento, per esempio per imparare la lingua italiana prima di entrare nelle classi permanenti, perché altrimenti si rischia un po' di frenare l'apprendimento di tutti gli studenti. Le classi della Lega, le classi separate, qualcuno ha detto, la Lega dice non sono classi separate, insomma cercheremo di capire tutto con le polemiche annesse, il dibattito che si è scatenato, lo facciamo con gli ospiti che saluto, a iniziare dall'onorevole Paola Goisis della Lega, appunto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Tra l'altro è colei, lo diciamo, che ha ispirato questa norma, forse l'ha scritta anche materialmente, poi è stata presentata dal capogruppo, ma insomma ne aveva parlato anche ai nostri microfoni qualche tempo fa, per chi ricorda. Saluto la senatrice Vittoria Franco del PD, ministro ombra delle pari opportunità, benvenuta. Buongiorno. E voglio salutare il direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio Sciortino. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi. Settimanale che di recente, lo sapete, insomma, non ha mai risparmiato anche qualche critica proprio sul tema dell'immigrazione nei confronti del governo. 9:10, la proposta della Lega, la mozione votata e passata alla Camera che sta suscitando polemiche sulle cosiddette classi separate, i corsi per gli studenti stranieri che non sanno bene l'italiano, in modo da portarli al livello degli altri e poi inserirli nelle classi con tutti gli altri. Allora, due precisazioni prima di iniziare da tenere ben presente. Poco fa il ministro dell'istruzione Malestella Gelmini ha parlato, credo con il direttore di Panorama Belpietro su Canale 5, ha detto: sono favorevole alla mozione della Lega, senza la conoscenza della lingua italiana non c'è integrazione. Se vogliamo accogliere in maniera adeguata i bambini stranieri, è giusto investire risorse perché possano conoscere la lingua italiana e integrarsi al meglio. Questa è una notizia di qualche istante fa. E poi qualche numero prima di iniziare: gli studenti stranieri in Italia sono circa il 6,4%, nella scuola dell'infanzia sono il 6,7%, scuola primaria il 7,7%, nella secondaria di primo grado il 7,3%, nella secondaria di secondo grado il 4,3%. Insomma, una media del 6,4% di studenti stranieri in Italia. Un numero molto aumentato negli ultimi anni. Nel 2000 erano 147.000, nel 2007-2008 sono 574.000, un aumento del 289% negli ultimi 8 anni. Poi magari vedremo come sono distribuiti anche per regioni. Onorevole Goisis, le accuse io le ho citate, magari se vuole commentarle o se vuole tralasciarle quelle più dure, insomma i treni per Auschwitz, sì. La stella di Davide. Se vuole risponda, se no ci spieghi perché non è un provvedimento razzista, come è un'accusa che è venuta da più parti. Allora, io avevo già premesso in discussione generale che ci sarebbero arrivate accuse di razzismo e ho voluto spiegare parola per parola proprio la mozione, proprio per evitare questa accusa. Ma chiaramente chi ha risposto anche alla Camera o non aveva letto la mozione e quindi ha parlato mosso soltanto da questioni, da principi, da pregiudizi ideologici, o assolutamente significa che non è un insegnante. Allora, noi che siamo anche insegnanti e che abbiamo vissuto in primo piano, diciamo, le problematiche di questi bambini e di questi ragazzi che sono dentro dentro queste classi e che ci guardano con gli occhi, come dire, supplichevoli proprio, perché ci guardano e sembra che dicano non sentiamo, non capiamo. Allora, se veramente la sinistra vuole integrare questi bambini e questi ragazzi, deve appoggiare la nostra mozione, che è una mozione di buon senso, perché non significa né separare, né discriminare, né emarginare. Non voglio neanche commentare quelle accuse che ci sono state rivolte, perché sono manifestazioni di poca intelligenza, secondo me. Voglio solo dire che la nostra intenzione invece è quella di integrarli. Bisogna precisare che il problema che lei ha espresso prima, cioè il 6,4% di presenza appunto di bambini o comunque di scolari extracomunitari, se andiamo al nord queste percentuali si raddoppiano, si triplicano. Effettivamente il problema è molto più sentito al nord che in altre parti appunto della questo parte, però mi scusi che c'è, perché sennò rischia di diventare una battaglia tra virgolette leghista. Questo che c'entra nel momento in cui si fa una mozione o si dovesse impegnare il governo per farne chissà poi un domani una legge, questo vale per tutto il territorio nazionale. Certo, ma non la è che... mia precisazione era solo per cercare di giustificare, se si può, in qualche modo chi si esprime in modo contrario, nel senso che forse non conosce bene il problema. Ecco, era solo va questo. Bene, certo, ma poi adesso tra l'altro nelle varie regioni lo vedremo. Prima di spiegare adesso nel dettaglio insomma che cosa si prevede, cosa si potrebbe fare per questo, detto che già in altri paesi qualcosa c'è, già in Italia, e poi lo sentiremo anche alle 9:30 con un esempio concreto, qualcosa del genere si fa. Vorrei andare per un attimo da Don Antonio Sciortino. Lei in un'intervista, credo anche al Corriere della Sera, si è espresso negativamente. Don Sciortino ha parlato di un provvedimento che porta più al sapore dell'espulsione, della volontà di espulsione, più che dell'integrazione. Perché? Guardi, io dico questo, il problema che si pone è un problema reale, perché in una società dove c'è una presenza alta di ragazzi stranieri nelle scuole, ecco, si pongono diversi problemi. Però a un problema reale si dà, a mio parere, una risposta sbagliata, perché mi pare una risposta veramente affrettata che porta non alla vera integrazione, ma porta veramente alla separazione. Se è vero che gli insegnanti hanno esperienza diretta, ma ci sono tantissimi altri insegnanti che fanno un'esperienza diversa, che reputano la scuola come l'elemento primario di integrazione. Ora, puntare con tutte le buone ragioni che si possono addurre alla separazione di questi bambini è veramente sprecare l'opportunità migliore che si ha di utilizzare la scuola come elemento di integrazione. Ora, se questo problema è un problema reale, un problema forte, perché non si fa un ampio dibattito prima di arrivare a delle mozioni o degli emendamenti che si fanno passare così quasi di soppiatto per poter poi agire un po' di forza? Se sta a cuore il problema dei nostri ragazzi italiani, dell'integrazione dei ragazzi stranieri, apriamo un ampio dibattito, ci sono tante esperienze, ci sono tanti modi per poter integrare questi ragazzi, ma il metodo più sbagliato è proprio quello di fare le classi differenziali, di fare le classi separate. Anche se fosse una questione, viene definita classi, ma fossero dei corsi, per esempio ci sono delle scuole dove si fanno arrivare, non so, mezz'ora prima e si fanno stare mezz'ora in più per dargli un corso di italiano. Si possono trovare mille modi, si possono aggiungere delle ore in più per questi ragazzi, bisogna dare un aiuto per chi sta indietro. Ma questo è stato fatto anche con i ragazzi italiani, altrimenti cosa facciamo? Tutti quei ragazzi che hanno dei problemi nell'apprendimento, facciamo delle classi separate anche per questi ragazzi? Non dimentichiamo l'opera così di grande civiltà quanto si sono inseriti nelle classi dei bambini con handicap fisici e handicap psichici. Allora avremmo dovuto fare delle classi separate anche per questi bambini. Non credo che questa sia la soluzione migliore. Che il dibattito sia molto vivo e che raccolga dei pareri contrari o favorevoli, molto trasversali, ne è esempio per esempio il Secolo d'Italia, che è l'organo di Alleanza Nazionale, il giornale di partito, che ieri titolava «Scordatevi l'apartheid». Dopodiché ieri il presidente della Camera Fini di Alleanza Nazionale ha detto nella mozione della Lega Nord non c'è scritto espressamente di classi differenziate, questo sarebbe stato intollerabile, non c'è scritto, c'è scritto di prendere in considerazione l'ipotesi che i bambini che non conoscono ancora la nostra lingua facciano dei corsi brevi e transitori per apprendere l'italiano e così inserirsi nella scuola, e questo è un principio che può favorire l'integrazione, non c'è alcunché di razzista o xenofobo. Quindi vedete, insomma, che ci sono pareri discordanti anche all'interno della maggioranza, ma anche all'interno degli stessi schieramenti, insomma il tema c'è. Senatrice Franco, anche lei è stata molto dura a parlare di credo elemento di barbarie nella proposta della Lega, perché? Un arretramento nella esperienza di integrazione che l'Italia ha fatto negli anni, che significa integrazione di bambini stranieri e integrazione anche di bambini con qualche problema di apprendimento, portatori di handicap. Noi siamo veramente un modello nel mondo per la sperimentazione e per la pratica di integrazione. E allora mi sorprende che l'onorevole Fini parli del fatto che non esiste la frase classi separate. Beh, esiste classi di inserimento, che è la stessa cosa. Classi di inserimento sono appunto raggruppamenti di bambini che sono separati dagli altri bambini italiani, quando invece l'integrazione si realizza molto meglio, e questo lo sanno tutti, attraverso lo scambio, attraverso la convivenza, attraverso il gioco, attraverso il gesto, attraverso il disegno, attraverso l'apprendimento di altre materie, come la matematica per esempio, che non richiede una conoscenza approfondita della lingua, eppure può essere un elemento di scambio appunto e di crescita del bambino, di motivazione ulteriore. E poi classi separate che vuol dire? Classi di inserimento, vuol dire che questi bambini dovranno stare lì per fare tutte le altre materie o per fare solo l'italiano? Cosa vuol dire? Io sono d'accordo con quello che diceva il dottor Sciortino sul fatto che il problema esiste certamente il problema, ma la risposta probabilmente è un'altra, ed è quella che tiene fermo il principio dell'integrazione vera, che è basata sulla convivenza. Io ricordo 800 24 00 24 per intervenire, gli sms 349 238 6666. E allora, onorevole Goisis, veniamo, ci spieghi un attimo, perché questa è la mozione, poi la mozione è anche a disposizione, credo che i siti ormai la pubblichino, la pubblicheremo anche noi il testo nel nostro sito radio24.it alla puntata di oggi. Ci spieghi però in concreto che cosa vuol dire? Lei prevede, o la Lega prevede, che cosa? Dei corsi separati, delle classi vere e proprie separate? Ce lo spieghi? Allora, intanto io vorrei invitare tutti coloro che si sono inseriti nel dibattito a leggere, prima di tutto, a leggere attentamente la mozione. Tutti si fermano e parlano di classi separate, di inserimento, di classi differenziate. Nessuno ci aggiunge l'aggettivo inserimento temporaneo. Allora, per questo che io sono abbastanza anche dura quando sento fare determinate critiche, perché sono critiche gratuite nel momento in cui non si è letto attentamente ciò che noi vogliamo proporre, ciò che abbiamo proposto, e ricordo che è stato votato a larga maggioranza dalla Camera. Allora, larghissima proprio no, insomma, non c'è stata quella larga maggioranza espressione. Perché nella maggioranza ci sono state due persone che sono uscite, c'è stata Mussolini che ha votato, credo che abbia votato contro, ma questo non mi preoccupa assolutamente, siamo in democrazia e ognuno può esprimere liberamente il proprio parere. Ma venire a dire che noi abbiamo proposto una cosa che fa ricordare, adesso sì devo dirlo, Auschwitz o appunto la lettera I da mettere sulla giacca, ecco, questo vuol dire proprio poca intelligenza. Allora, si parla di barbarie, si parla e si vuole ricordare i bambini con handicap, ma i bambini con handicap nelle classi ce n'è uno in ogni classe, noi abbiamo le varie classi invece dove ci sono 7-8 bambini che non capiscono l'italiano, precisiamo che non capiscono l'italiano. Perché è questo il discrimine. Chi capisce l'italiano se ne sta nelle classi con gli altri bambini italiani. e capisce e va avanti nel processo. Beh, questo ci mancherebbe, insomma. Ma certamente. No, questo è stato allora, chiarito, voglio dire, per chi sì, non ma conosce allora, l'italiano, vuole. Non è, non allora, è... se no sarebbe l'apartheid veramente. Delle parole che noi non abbiamo mai detto, mai usato, neanche lontanamente. Cioè, questo che non accetto nella lotta e nella dialettica politica. Allora, va bene, questo l'ha precisato. Cioè, io ce l'ho la mozione qua davanti. In realtà, leggo, si impegna il governo alla fine di tutta una serie di considerazioni molto lunghe, di 4-5 pagine, si impegna il governo a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, favorendo il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione. E poi a istituire classi di inserimento che consentano agli studenti stranieri che non superano le prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti. In queste due frasi devo dire, onorevole, per correttezza, che classi di inserimento temporaneo non c'è scritto, insomma, ma vado avanti, vedrà che lo trova. Ah, lo trovo più avanti. Ecco, ce lo spieghi in concreto cosa sì, come si potrebbe applicare in una scuola. Questi test sono gli stessi test che si fanno quando si vuole imparare qualsiasi altra lingua. Se io voglio imparare l'inglese, prima mi fanno fare un test per capire il mio grado di conoscenza dell'inglese, che può essere scolastico, che può essere nullo, che può essere avanzato, e a seconda della conoscenza si procede poi al corso, appunto, di inglese o di qualunque altra lingua. Stessa cosa è qui, si fa un test per vedere a che livello sono questi bambini nella conoscenza, appunto, dell'italiano. Dopodiché si inseriscono in queste classi, che sono classi di inserimento, ripeto, temporaneo, che prevedono anche degli step, cioè ogni 3 mesi, 4 mesi, ogni 2-3 mesi si verifica il livello, appunto, che è stato raggiunto. Se il livello è stato raggiunto, il bambino viene reinserito nella classe di competenza. Bisogna precisare che finora i bambini o ragazzi vengono inseriti in base all'età. Il criterio è l'età. Se un bambino ha 8 anni viene messo in terza, se ha 14 anni viene messo in primo biennio superiore, se ha 10 anni viene messo in quinta elementare. Ma è chiaro che se dietro non ha la conoscenza, appunto, dell'italiano e anche, diciamo, delle altre materie, delle altre discipline. Sì, l'età non sempre corrisponde. Certo, come io fa? Mi faccio andare per un attimo da Don Antonio Sciortino, che poi ci deve salutare, la liberiamo come promesso, Don Sciortino. Io volevo dire questo. Sì. Le voglio chiedere anche, sì, poi replica, le voglio chiedere anche se secondo lei non c'è un approccio un po' ideologico, forse da tutte le parti, ne voglio dire, perché il problema c'è, il principio magari qualcuno dice condivisibile, però effettivamente anche queste espressioni che si sono sentite in questi giorni... Lasciamo perdere le ideologie, però non si può neanche giocare tanto con le parole, perché si dice temporaneo, ma non si distingue quanto è lungo questo temporaneo, perché la temporaneità può anche durare a lungo. Però nella mozione, oltre all'apprendimento della lingua, si dice anche che questi bambini immigrati devono apprendere anche il rispetto di tradizioni territoriali e regionali, delle diversità morali e della cultura religiosa del paese accogliente. Quindi non si tratta semplicemente dell'apprendimento della lingua per superare un piccolo ostacolo, tenendo conto che i bambini a quell'età, stando assieme, apprendono con una velocità che noi non ce lo sogniamo, non ce l'immaginiamo neppure. Però perché non pensiamo a immaginare questi immigrati da un altro aspetto? Cioè, quello che a me preoccupa è che la cultura di fondo non è quella dell'accoglienza, per cui io ho molta diffidenza quando si fanno queste proposte, perché, come ho detto nell'intervista che lei ha citato, questa mozione viene dopo il permesso appunti, viene poi dopo la tassa di ingresso, allora non mi pare che ci sia questo sforzo di integrazione, c'è veramente lo sforzo semmai opposto, quello di rendere molto difficile la permanenza degli stranieri in Italia. Non dimenticando, secondo lei è un provvedimento che può portare o addirittura è a sfondo razzista, come qualcuno ha detto? Usiamo le parole che vogliamo, comunque è sbagliato, è totalmente sbagliato, perché porta alla separazione, non porta all'integrazione. Lo si potrà giustificare in tutti i modi, con tutte le buone intenzioni, ma le risposte sono sbagliate. Ci sono tanti esempi sul territorio di piena integrazione, andiamo a cogliere questi esempi. Il cardinale Scola ha dichiarato, lui che è cardinale di una città con apertura verso l'Oriente, Venezia. L'incontro tra le culture è una ricchezza. Noi ci impoveriremmo se veramente tagliamo fuori dai nostri orizzonti la ricchezza che possono portare questi stranieri. Risolviamo i problemi pratici come tutte le nazioni le hanno, non li sottovalutiamo, ma diamo per favore risposte che siano serie, che non siano viziate da quelle che lei diceva, da un approccio ideologico, perché la cultura che respiriamo non è di accoglienza, è una cultura proprio di espulsione, e sono tantissimi, gira in questi giorni su internet un video con dichiarazioni di esponenti della Lega, fanno veramente accaponare la pelle. E allora, a cosa si riferisce questo video? Me lo sono perso. Mi riferisco a un video che gira di Gentilini con delle dichiarazioni proprio nei confronti dei bambini stranieri. Per favore, andiamo ad ascoltare anche queste dichiarazioni. Allora si capisce che quando arriva una mozione, perché il problema immigrati stranieri è stato quasi totalmente delegato o appaltato alla Lega? Questo è un problema che interessa tutte le forze politiche. Allora, io la ringrazio per essere stato con noi, Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. Diamo la prima ascoltatrice, poi vado un attimo in pubblicità e ritorno da Vittoria Franco e Paola Goisis. Anna da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io telefono perché anni fa abbiamo avuto un'esperienza del genere in quanto mio marito era stato trasferito in Francia per lavoro. E quindi nostra figlia doveva frequentare la scuola là, era il tempo delle medie. Lei non conosceva il francese, salvo non so, una dozzina di parole, non si può dire che uno conosca il francese. E siamo andati in una scuola dove i bambini stranieri, lì ce n'erano molti, era una scuola che accoglieva molti bambini delle famiglie che andavano là per lavoro. In questa scuola chi non conosceva la lingua veniva messo in classi speciali, erano chiamati classi speciali. Come ha ricordato ieri il Sole 24 Ore, cioè in Francia ci sono a tutti i livelli di istruzione le classi per favorire la lingua francese prima di inserire nelle scuole. È stata presentata come una cosa che era un vantaggio per noi e noi l'abbiamo vissuto come un vantaggio, come un grandissimo servizio. C'era chi stava fino a Natale, c'era chi stava fino, mia figlia è stata fino a Pasqua, e c'era chi ci stava tutto l'anno. E noi l'abbiamo trovata una cosa ottima, non ci siamo sentiti per niente emarginati. Trovo che quindi la sua esperienza è positiva, concreta, vissuta in Francia. Penso che, non lo so, non come avrebbe potuto seguire le lezioni senza capire che cosa veniva detto, anzi era un disagio incredibile, certo. Ogni giorno tornava a casa con una ventina di parole da imparare per il giorno dopo. In quel periodo lì c'era una persona che ha detto allora non faranno le altre lezioni, no, infatti veniva fatto solo la matematica, veniva fatto solo qualche cosa, erano tralasciate tutte le materie un po' minori. Umanistiche. Che comunque, insomma, poi... No, è andata bene, la ringrazio Anna per il suo racconto. Vittorio dalla provincia di Forlì Cesena, giusto? Sì, buongiorno. Dica. Ma dunque non vorrei soffermarmi sul discorso del razzismo perché credo che anche questo emendamento faccia parte di un disegno più ampio di separazione, eccetera, ma sul lato molto pratico e denunciare il fatto che questo emendamento è come al solito un emendamento totalmente ideologico perché in Italia è realizzabile. Da un lato si tagliano fondi per miliardi alla scuola e si tolgono insegnanti passando da 3 ad 1 e adesso si tira fuori un emendamento della Lega che ci parla di... Non è un emendamento, è una mozione. Sì, una tecnicamente mozione però c'è una differenza. Parla di corsi separati per il 6-7%. Dei bambini che attualmente, dei ragazzi che attualmente sì, anche questa spiego perché ha detto un'imprecisione. Non è che tutti gli stranieri devono fare questi corsi, quelli che guardi, non sanno l'italiano. Ma non capisco perché si parli di stranieri. Andiamo al lato pratico della cosa. Mio figlio ha 8 anni e alle elementari. Quest'anno ha 3 bambini, 4 bambini nuovi, sì. Una proviene dalla Cina, uno dal Marocco, uno da Napoli e uno da Bolzano. Tutti e quattro non parlano l'italiano. Tutti e quattro hanno difficoltà di inserimento, perché quello da Bolzano parla solo il tedesco e quello di Napoli parla solo il napoletano. Allora, in tre mesi sono quasi tutti, sia il cinese che il marocchino che il napoletano che il bolzanino, allineati a tutti gli altri, perché i bambini a quell'età ci mettono pochissimo a prendere la nostra lingua. Grazie Vittorio. E un'ultima considerazione. Il mio figlio, per imparare l'inglese, lo manderò ad un corso in Inghilterra in full immersion, dove tutti parlano solo inglese ed è l'unica possibilità che impari l'inglese in modo corretto. Bene, beato lei che se lo può permettere. Beato lei. Ci spieghi la Lega perché dovremmo ribaltare completamente. Adesso le risponderà l'onorevole Goisis, però insomma non tutti possono permettere, bene per lei, insomma è una cosa molto meritoria mandare un corso in full immersion in Inghilterra. Prima però, senatrice Vittoria Franco, vuole rispondere a, insomma, all'ascoltatore, all'accuse e anche l'onorevole Goisis che dice ma insomma c'è troppa ideologia in questi in queste accuse che ci sono. Non è ideologia, è appunto guardare le cose nella loro effettiva realtà. La realtà ci dice che certo c'è un problema di inserimento di questi bambini, però anche i radioascoltatori hanno già risposto in parte. I bambini fanno presto a imparare, perché tenerli lì per tanto tempo? Poi l'aggettivo temporaneo, onorevole Goli, non c'è nella mozione che è stata approvata e anzi è chiaro che tutta la mozione non è tesa soltanto all'apprendimento dell'italiano, cioè le classi di inserimento non dovrebbero essere fatte allo scopo di insegnare l'italiano prima di inserire i bambini nella classe regolarmente. Però guardi, io le voglio leggere qualche mail, senatrice. Per esempio, sì. Jacopo Gualandi ci scrive: io negli Stati Uniti avevo 16 anni, mi hanno messo, siccome non sapevo in inglese, in una scuola con bambini di 8 anni. Non mi sono sentito per nulla umiliato, ho recuperato la lingua e poi mi hanno reinserito lì. Oppure un altro ascoltatore ci ha scritto: ne parlavo ieri con mia figlia, sono del Mantovano, ha due cinesi in classe che praticamente dormivano tutto il tempo perché poveretti non sapevano l'italiano e quindi mia figlia ha detto forse è il caso di insegnarglielo, proprio perché magari vorrei anche parlarci, vorrei conoscerli, certo, vorrei certo. Poi integrarmi con loro. Ma questo è un problema, nessuno sta negando che esista il problema. La questione vera è come lo risolviamo. Lo risolviamo soltanto con le classi di inserimento separate che non si sa quanto debbano durare, a che cosa devono essere finalizzate, perché qui nella mozione si parla di altri insegnamenti tipo sostegno alla vita democratica, interdipendenza mondiale addirittura deve essere insegnata in queste classi di inserimento. Non solo, altri punti che sui quali poi all'onorevole Goisis vorrò chiedere: rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del paese accogliente. Sono dei veri e propri corsi, qualche volta addirittura a livello universitario, perché insomma da bambini di 5, 6, 7 anni è difficile insegnare tutte queste cose che loro vogliono insegnare, anzi queste cose forse si insegnano meglio facendo stare i bambini con gli altri bambini, con quelli italiani, con altri di altre realtà che hanno imparato magari già l'italiano e possono dire come fare per far prima, quindi il problema dell'integrazione, il problema di mettere questi bambini prima possibile in grado di seguire insieme con tutta la classe tutto il resto delle lezioni. E però appunto che cosa accade? Questi bambini che stanno lì a imparare tutte queste cose che abbiamo detto che non c'entrano niente con le classi regolari, poi stanno lì 3, 4, 5 mesi e alla fine vengono inseriti nelle classi regolari che magari già hanno fatto una buona parte del programma. Allora hanno difficoltà su quest'altra parte del programma. Quindi il problema, voglio proprio sintetizzarlo ed essere chiara perché non siamo ideologici, il problema esiste, la mozione della Lega presenta delle soluzioni che non solo sono sbagliate ma sono anche rischiose, perché guardi, è vero parlare di quello che accade in Francia, che è accaduto, che accade da molto tempo, che accade anche in Svizzera, che accade in altri paesi, però noi qui in Italia stiamo vivendo un momento, un periodo molto che ci preoccupa per quanto riguarda la capacità, Don Sciortino parlava di accoglienza, io voglio dire di convivenza, cioè, la Lega tutti i giorni tira fuori un'idea per cercare di escludere le persone immigrate, anche quelle regolari, anche quelle con... Sì, insomma, lei dice il problema pratico c'è, non vi piacciono proprio questa soluzione. No, non ci piacciono le soluzioni, bisogna parlare bene per cercare le soluzioni, che non può anche non essere una. No, no, ma è chiaro. Allora, siccome ci sono... a seconda della realtà. Ci sono tanti ascoltatori, però io voglio salutare un ospite, poi vado da Paolo da Padova, Paolo da Lecco, Carla da Perugia, un ospite che è Roberto Ferrari, direttore didattico all'Istituto Comprensivo di Luzzara, siamo in provincia di Reggio Emilia. Buongiorno Ferrari. Buongiorno. Benvenuto. Elementari e medie, giusto per capire, insomma, degli istituti. Infanzia, scuola primaria. Ah, perfetto. Anche infanzia. Da settimana prossima, a quanto state di percentuale di stranieri? 40%. Dunque, insomma, ben al di sopra della media nazionale del 6,4%. Okay. Ecco. Come si affronta questo problema? Credo anche a partire da settimana prossima c'è un'iniziativa. Certo. Ce la spieghi. Guardi, purtroppo non ho sentito per il tono della voce i suoi interlocutori, sì. Sentivo soltanto vagamente. Io posso dire soltanto questo, che la mozione della Lega mi sembra abbastanza generica, ma è la caratteristica delle mozioni questi, ma tocca un problema che diventa reale, soprattutto quando le percentuali nelle classi superano una certa entità. La nostra esperienza, per esempio, di tutti questi anni ci permette di dire che 10-15% di alunni stranieri nelle classi non creano problemi. Mi spiego, 2-3-4 bambini in classi di 25 sono in una full immersion tale per cui imparano da soli la lingua italiana. I problemi però aumentano in modo esponenziale quando si superano certe percentuali. La nostra esperienza ci dice che i problemi aumentano quando si supera per esempio il 30%. Perché che cosa succede? Che i ragazzini tendono a parlare nella loro lingua in tutte le occasioni, per cui la cosiddetta full immersion non c'è più. È per questo che abbiamo attivato da alcuni anni, con gli interventi dell'amministrazione scolastica chiaramente, gli interventi dell'ente locale, i nostri laboratori linguistici. Sì, cosa fate? Prendete e separate temporaneamente per insegnare l'italiano. I ragazzini che arrivano, queste sono le esperienze in atto, poi c'è l'esperienza nuova che parte, sì, fra 2 o 3 giorni. Cioè noi abbiamo, li chiamiamo laboratori linguistici, i ragazzini che non parlano una parola di italiano vengono inseriti per un certo numero di ore al giorno, non tutta la mattina chiaramente, o il pomeriggio, nei laboratori linguistici che sono finalizzati proprio all'apprendimento specifico della lingua italiana ed entrano nelle loro classi durante lo svolgimento di tutte quelle attività nelle quali l'uso della lingua italiana non è indispensabile. Parlo della lingua straniera, parlo del disegno, parlo delle attività motorie, parlo di tutte quelle attività nelle quali chiaramente possono seguire il ritmo della classe anche senza una conoscenza precisa della lingua italiana. I problemi però aumentano quando si superano certe percentuali. E tra un attimo, dopo il traffico, vediamo a quello che succederà invece da lunedì. Vi prego di essere brevi, gli ascoltatori. Grazie. Paolo da Padova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo dire una cosa molto semplice. Io alle ultime elezioni ho votato Lega, sono un cattolico praticante. Questo per dire che non credo che le voci di cattolici sia solo quella della famiglia cristiana. Io porto la mia esperienza personale. Io ho un bimbo che frequenta l'asilo e in classe con sé ha dei bambini cinesi. E spesso parlando con le maestre si lamentano del fatto che devono dedicare molto tempo alle bambine cinesi tralasciando logicamente il resto dei bambini. Sono convinto che in qualsiasi stato civile democratico per poter affrontare la situazione reale di quel paese sia un'entrata e sentirsi a proprio agio in quel contesto. Quindi sono convintissimo, sono favorevole alla proposta della Lega. Poi quelli che la contestano, io vorrei chiedere loro se sanno effettivamente in cosa consiste, perché anche l'esponente della sinistra adesso si chiedeva, adesso bisognerebbe vedere in cosa consiste, in cosa non consiste questa proposta. Prima, anche perché quando c'è un problema reale e si tenta di dare una risposta, diamo una risposta e proviamo a... Lei dice mettiamola in pratica e poi valutiamola. Va bene, lei è favorevole, grazie Paolo. Vado a Perugia da Carla. Carla, buongiorno. Pronto? Sì, Carla, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono un ex insegnante di economia aziendale, sono in pensione da 2 anni e posso dirle che quando venivano messi questi ragazzi in classe era un tormento, perché poveretti non capivano una parola, né io, poi io insegnavo economia aziendale, per cui lei capisce, mica potevo devo fermare il programma per insegnare l'italiano, insomma, ecco, perciò io sono favorevole. Favorevole. E poi volevo dire una cosa, io ho sempre votato a sinistra, però devo dire la verità che vedere io inorridì quando ci fu Berlinguer che si calava le braghe di fronte ai ragazzi per televisione tutte le volte, solo diritti, diritti, nessun dovere. Per cui devo dire brava la Gelmini, guardi, sì, perché cerca di risolvere problemi reali. Va bene, non è stato nella scuola, parla Vanvera, mi dispiace per la sinistra, però sta parlando molto Vanvera. Grazie, grazie Carla. Grazie, buongiorno. Sì, ma l'ha sentita, immagino la senatrice Vittoria Franco si riferiva a lei. Roberto Ferrari, ci spieghi in due parole cosa succede da lunedì? Da lunedì i comuni, verrà realizzato un progetto non facile da mettere in piedi, studiato nel corso dei mesi estivi, che vede coinvolti gli 8 comuni del distretto di Guastalla, proprio per far fronte ai problemi emergenti che si rilevano nelle classi quando nelle nostre scuole le percentuali sono diventate ormai insostenibili. Preciso soltanto una cosa, brevissimamente, sono d'accordo con chi sostiene che i pochi alunni stranieri, anche lo stesso Tullio De Mauro sostiene la stessa cosa, non portano difficoltà alla gestione della scuola. L'eterogeneità delle classi produce migliori risultati, come evidenziano tutte le nostre prove invalsi del nostro istituto degli ultimi anni. Comunque, il nuovo progetto consiste in questo: gli 6 istituti comprensivi e 8 comuni della Bassa Reggiana si sono messi d'accordo per far fronte all'emergenza in questo modo, proprio nell'istituire una cosiddetta, chiamiamola, noi la chiamiamo classe di accoglienza. Sì. Cioè i ragazzini dai 9 ai 13 anni che arrivano dai paesi d'origine senza conoscere una parola della lingua italiana vengono trasportati temporaneamente per circa 2 mesi, sì, presso una classe di accoglienza nella quale noi siamo riusciti ad avere dall'amministrazione scolastica statale un insegnante particolarmente preparato nell'insegnamento dell'italiano lingua 2. E lì imparano la lingua e poi imparano la lingua, ma non solo la lingua, perché non, per quattro giorni la settimana, anzi per 5 giorni la settimana, frequentano tutta la mattina questa classe di accoglienza, il 6° giorno rientrano negli istituti di appartenenza ed oltre alla lingua italiana chiaramente imparano le regole della convivenza civile. Certo. Guardi, su questo io voglio infatti andare, onorevole. Onorevole Goisis ha toccato questo punto. Nella mozione si prevede che questi, diciamo, classi temporanee che devono, queste classi di inserimento prevedono anche dei corsi, per esempio, del rispetto per questi bambini, del rispetto di tradizioni territoriali e regionali del paese accogliente e rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del paese accogliente. Ecco, perché allora, questo? Cultura morale, ricordiamo, non nascondiamoci sempre dietro ai classico di. Ricordiamoci che tanti di questi bambini provengono da territori, da paesi dove esistono dittature, dove c'è gente che viene impiccata, dove c'è la pena di morte, dove ci sono persecuzioni. Allora, l'educazione morale, etica, significa questo, il rispetto reciproco rispetto alla vita e anche l'altra questione su cui mi è sembrato perfino di sentire quasi dell'irrisione, la ricchezza, il discorso culturale locale. Certo, se uno arriva in un paese che non conosce, deve conoscerlo in tutti i suoi aspetti. Ma perché il ruolo questo deve essere fatto, voglio dire, uno vive nella società civile italiana, se certo, viene dall'estero e impara, insomma, come con le relazioni, però, con le altre persone. Certo, però, perché la scuola si deve occupare? La scuola rientra nell'ambito di quella disciplina che è stata inserita come disciplina nuova e che è appunto quella, la vecchia educazione civica, cioè non c'è nulla di nuovo o di chissà che trascendentale. Allora, noi vogliamo che questi bambini vengano inseriti da subito, non come ci dice la sinistra o chi non fa l'insegnante, l'ha detto bene anche un'ascoltatrice. Allora, è inutile venire a parlare e accusare quando invece le intenzioni sono più che ottime. Da questo punto perché di vista, parlare anche sì, scusi, il direttore Ferrari ha parlato di classi di accoglienza, cambia il nome ma il significato è sempre quello. Inserire sì, no, effettivamente loro... in questo sì. Senatrice Franco, vuole replicare le accuse sia dell'ascoltatrice da Perugia, insomma, dire ma la sinistra critica, ma insomma, allora ci dica lei che cosa vorrebbe, per esempio, perché si è detto che un problema c'è. Se questa non le piace come soluzione della Lega, se in un minuto se riesce a spiegarci cosa farebbe lei. Le soluzioni possono essere tante. Intanto le classi di accoglienza, già nel nome, sono una cosa diversa, sono davvero finalizzate all'apprendimento dell'italiano e soprattutto consentono al bambino o al ragazzo di stare nella classe di accoglienza, però anche di frequentare la classe regolare, che gli consente di stare al passo con il programma delle altre materie, perché in matematica che farà questo bambino? E nelle altre materie che cosa farà questo bambino? Quindi il problema è di far stare in tutte e due le classi eventualmente, o comunque di provvedere con insegnanti di sostegno, con i laboratori linguistici. Ci sono tanti modi e tante soluzioni al problema, che voglio ripetere è reale, tutti gli ascoltatori l'hanno colto come reale. Il problema è come lo risolviamo. A me fa paura prevedere delle classi completamente differenziate, finalizzate non solo all'apprendimento dell'italiano, come ora l'onorevole Goi si sa... anche se temporaneamente, anche se per anche un se anno, tempo, sei mesi... Però qui non è detto un anno, far perdere un anno... No, sei mesi, non lo so, dico... ipotizzo. Ma anche sei mesi significa perdere l'anno, perché imparano l'italiano, però non sanno la matematica, non sanno la storia, non sanno tutte le altre materie che invece sono necessarie per passare quell'anno. Quindi il problema è di... non escluderli dalla progressione scolastica. Ma cercare di preservare le due cose. No, ma questo sicuramente l'abbiamo capito. Devo dire, ci fermiamo qui per oggi, ma è un tema talmente sentito. Leggo anche le mail, risponderò, ma insomma ne sono arrivate davvero tantissime, messaggi, telefonate. Ci torneremo, per il momento è una mozione, chissà se si concretizzerà in qualcosa di più. Ringrazio l'onorevole Goisis e la senatrice Franco, come Don Antonio Sciortino e Roberto Ferrari. Ci fermiamo qui, Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi in redazione, Giorgio Mattè in regia, e ci ritroviamo lunedì mattina.